2008, Damas Frigate, a.k.a. Tiro, Spot of the Dead, Daruma. Sì, capi, dormo stesso che mi sveglia all'alba. Vago senza luce con la luna che guarda. Vittima di un sogno e di una notte bugiarda. Notte che porta consigli e che parla. Ma non l'ascolto e confondo, questo è l'altro mondo. Ricordo carosello e cavallo in un giro tondo. Che resto senza rendermene conto, bloccato dalla giostra in un secondo. Giro a bocca aperta ma non urlo perché sconvolto. Cerco aiuti con gli occhi senza conforto. Nessuno c'è, nessuno se ne è accorto. Ma qualcosa si avvicina, ne sono certo. Svengo e ritorno, mi muovo storto come un cane sordo. Sbatto casco, mi alzo e mi confondo. Ricordi vaghi che vanno scomparendo. In testa visioni distorte che non prendo. E fulmini bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate al vento. Torneranno lentamente, avranno il sopravvento. E fulmini bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate dal vento. Torneranno lentamente, avranno il sopravvento. Tutto è merce, tutto marcisce, ma un giorno tornerà colui che perisce. Si è trascinato il peccato e ci chicciolisce. Che ignaro dei suoi sbagli, più sbaglia, più agisce. Carni e anime vendute su riviste, nel terzo mondo star a riviste. Comprano organi come fisce, scelte che richiamano all'apocalisse. Vivo la realtà dove si soffrisce, il mare che non riesce a immaginare se stesse. Più si piange, più la violenza cresce. Più la coscienza muore, più la crudeltà nasce. Zero rispetto, prospettive come esce. Ciclico caos dal quale non si esce. Sangue e lacrime che tingono ogni veste. Veste di benvenuto alla prossima peste. E fumi bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate dal vento. Torneranno lentamente, avranno il sopravvento. E fumi bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate dal vento. Torneranno e avranno il sopravvento. Non so come reagirò, se ce la farò ad affrontare la notte da solo. Se c'è qualcuno al mio fianco non mi consolo. E chiedo in alto di scendere al suolo. Per custodire e indirizzarmi il volo. A testa bassa li prego e li imploro. Copre i miei pensieri sotto foglie di allore. L'alba d'oro brucia quelle foglie dessi colore. Ed ogni giorno ormai è nuovo fuoco. Ed ogni giorno sarà luce per poco. Calerà la vista, si spegnerà ogni rogo. Una candela sarà accesa ma in un altro luogo. E terra che verrà impugnata è in vano. Che si aprirà ogni singola mano. Si fermerà ogni giostra, il cielo si spaccherà e capiremo che ci siamo. Fumi bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate dal vento. Torneranno e avranno il sopravvento. E fumi bianchi che si vanno dissolvendo. Le tenebre diurne hanno poco tempo. Le tenebre diurne trascinate dal vento. Torneranno lentamente, avranno il sopravvento. Sì. Avranno il sopravvento. Avranno il sopravvento. Non mastico. Avranno il sopravvento. Tiro MC.